Quanti sono i contagiati in Cina? La settimana si apre con questa tra le tante domande che circondano la vicenda del coronavirus. Mentre in Italia si ipotizzano controlli anche sui voli nazionali e verifiche nelle università, Pechino fa sentire la pressione sull'Italia per misure considerate troppo drastiche. La settimana si apre anche con la riapertura del dibattito sulla prescrizione e con quello sui decreti sicurezza. A proposito, pare che la Lega, dicono indiscrezioni dei giornali, ci abbia ripensato e nel voto sul processo a Salvini per nave Gregoretti diserterà l'aula. A Los Angeles, lo avete sentito, è stata la notte degli Oscar e per la prima volta è miglior film una pellicola non in lingua inglese, il sudcoreano Parasite. Il campionato è una corsa ormai a tre, l'Inter ribalta il derby. Tiene la corsa con la Juve, adesso sono a pari punti, la Lazio tiene a sua volta e così è. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Buon lunedì, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buon lunedì 10 febbraio. Sono le 6:33 minuti e 30 secondi e inizia la nuova settimana di 24 Mattino. Anche con voi, come sempre, al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, la vostra voce. Fatecela sentire, eh? E se volete, su WhatsApp, come sempre, mandateci le foto della vostra mattina, della vostra colazione, di quello che vedete dalla finestra o dal finestrino per questo racconto collettivo della mattina degli ascoltatori di Radio 24 che facciamo sul nostro canale Instagram. Filippo Reggi in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Ci siamo, ci siamo. Oh, tanto si parla del coronavirus. Guardate, stamattina il pezzo che più mi ha colpito sui giornali, siamo a pagina 8 del giornale, la psicosi che investe il Senato, perché il viceministro Sileri, lo avete sentito anche a questi microfoni, che tra l'altro è un medico, è andato a Wuhan a recuperare gli italiani che erano là, insomma, ad accompagnarli. Ci racconta Diana Alfieri che il viceministro è diventato un untore. A Palazzo Madama colleghi e compagni di partito iniziano ad evitarlo, le pacche sulle spalle diminuiscono, le strette di mano scompaiono, quando lo incontrano cambiano strada. Povero Sileri, è presumibile che in realtà le precauzioni l'abbia prese, insomma, però dice che basta un colpo di tosse e uno starnuto del povero viceministro per mettere in fuga senatori, commessi e dipendenti. Oh, madonna mia. Vabbè, tante altre cose, la politica naturalmente sulla prescrizione, ne parleremo poi alle 8:20 con Maria Latella, andremo sulla sostanza di questa discussione, lo faremo con un magistrato, Sebastiano Ardita, col presidente delle Camere Penali, Cagliazza, a confronto sulla sostanza di tutto questo. Intanto è questione politica ovviamente anche. Marattin di Italia Viva. Noi non abbiamo fatto nessun passo indietro, Giletti, ma innanzitutto spieghiamo il perché. Il problema di questa vicenda è logico prima che politico, cioè tutti siamo d'accordo che il nostro obiettivo è far durare di meno i processi, giusto? E ci viene detto, guardate, approviamo in prima battuta, anzi già in vigore, una cosa che invece i processi li fa durare di più. Perché se io abolisco la prescrizione dopo il primo grado, non c'è più nessun incentivo per una macchina della giustizia ferma così com'è a fare i processi. E poi i decreti sicurezza. Ieri, questo era ovviamente Marattin da Giletti, ieri da Fazio invece la ministra Lamorgese, ancora su questi decreti sicurezza da cambiare, però... Ragazzi, siamo fermi là, perché anche su questo l'accordo politico non lo trovano. Allora, Lamorgese sui decreti sicurezza, via. Io penso che i decreti sicurezza vadano cambiati cambiati perché ci sono state delle osservazioni da parte della Presidenza della Repubblica e quindi ovviamente di quelle osservazioni si dovrà necessariamente tener conto, ma ci sono anche altri aspetti che potremo valutare insieme anche alle forze di maggioranza per verificare l'opportunità di procedere anche ad altri mutamenti. Tornano da noi Marianna Aprile, giornalista, autrice Il grande inganno, First Lady, nemiche perfette ed eroine silenti, così la politica nasconde le donne. Ciao Marianna, bentornata. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ed è bentornato anche Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net. Roberto, ciao. Eccoci. Eccomi, buongiorno. Eccoci qua. Allora Marianna, abbiamo chiuso la settimana con quella che sembrava praticamente una crisi di governo alle porte, con Renzi che si scatenava eccetera eccetera, e invece apriamo la settimana con tutto un po' più tranquillo, no? Con Italia Viva che dice beh, tutto sommato questa riformina della prescrizione per il momento va bene così, poi vedremo, no? Sì, sembra un po' la parte finale del monologo di Manuel Fantoni per gli amanti dei film di Verdone, cioè alla fine di dichiarazioni roboanti. No, ma io sto scherzando. C'è una marcia indietro dei Mattei, cioè iniziamo la settimana con la marcia indietro dei Mattei, perché così come Renzi torna indietro sulle minacce di mettere seriamente in crisi il governo sulla prescrizione, c'è un altro Matteo che torna indietro sul proprio processo per la Gregoretti, quindi è un po', se vuoi, no, anche un buon segno, nel senso che forse iniziano a capire che abbandonare il merito per i tatticismi non sempre paga. Devo dire, stavolta almeno su Renzi pensavo sarebbe andato un po' più avanti, evidentemente sì. Come dice, ha annunciato una guerriglia, poi insomma, in genere il gergo militare non gli porta benissimo visti i precedenti, però diciamo ha annunciato che non è finita qui, però di fatto che ne dica Maratin, è una ritirata, ed è una ritirata però che lascia sul tavolo le questioni di merito, cioè i dubbi su queste modifiche alla prescrizione rimangono da parte dei costituzionalisti e di addetti ai lavori. E quindi ancora una volta abbiamo la sensazione che si sia badato molto più agli equilibrismi e ai tatticismi dei singoli o dei partiti e molto poco agli effetti reali che le novità che si vanno ad apportare alle procedure avranno sui processi. Guarda qua decisamente ognuno ne fa una battaglia di bandiera. Il Movimento 5 Stelle da una parte, che comunque va detto, a un compromesso ci è arrivato, cioè ha aperto ad un compromesso, e dall'altra parte ovviamente Renzi. Roberto, la realtà è che nessuno vuole andare al voto adesso, lo ribadiamo ancora una volta, nessuno vuole andare al voto adesso, non il Movimento 5 Stelle con le percentuali che ha riscosso nelle ultime elezioni, non Italia Viva che ha appunto dei segnali non particolarmente positivi, probabilmente nemmeno il PD che si attesta su quel 20, 21, 22, ma insomma al momento poco di più, e quindi si vive o vivacchia. Sì, diciamo la drammatizzazione di tutta questa vicenda che si sarebbe potuta affrontare con qualche riunione tra esperti è dovuta alle esigenze di visibilità, in particolare del Movimento 5 Stelle da una parte, che ha oggettivamente un problema di consenso molto grande, rilevato in tutte in tutti i sondaggi e anche visto ufficialmente nelle elezioni regionali che si sono celebrate negli ultimi tempi, non solo le ultime di Emilia Romagna e Calabria. E dall'altra parte però anche di Renzi, tutto sommato, che avendo bisogno di cercare, in virtù dell'essere l'artefice di un partito nato da pochi mesi, separandosi dal PD, di cercare il più spesso possibile di un'occasione di visibilità, è tutta lì la questione, fermo restando che nessuno vuole andare a votare, questo è certo. Allora, prima di poi proseguire la nostra chiacchiera, parleremo anche un po' di questa psicosi da coronavirus e non solamente di quella. Beh, dobbiamo assegnare il nostro Oscar che va. A Marta Cagnola, che di fatto ha mantenuto il fuso orario, dopo essersi seguita tutto Sanremo, questa notte si è seguita la notte degli Oscar. Marta, ciao, buongiorno, eccola qua. Guarda, non lo so se ho mantenuto il fuso orario o ho preso quello esattamente opposto. Non so può darci. Qual è il mio ritmo sonno-veglia. Faccio dei microsonni di un quarto d'ora ogni tanto. Un cratio, quei 10 minuti, un quarto d'ora. Senti, allora, serata storica agli Oscar perché vince il per la prima volta miglior film, un film non in lingua inglese. Questo Parasite, un film sudcoreano. Sì, allora, che potesse vincere il film per il miglior film internazionale, non si chiama più miglior film straniero, era previsto, insomma era abbastanza scontato. Però si è portato a casa anche miglior sceneggiatura, miglior regia e miglior film in assoluto. Non era mai appunto successo nella storia dell'Academy. Bong Joon-ho è un personaggio stranissimo. L'unica cosa, insomma, ha fatto i suoi discorsi in coreano e continuava a dire, vabbè, berrò, poi all'Oscar successivo, vabbè, allora bevo fino a domani, così, vabbè, un personaggio straordinario. Senti, vabbè, più scontati gli attori, esatto, appunto, attori, la sì. Zellweger e Joaquin Phoenix, no? Sì, Judy Garland e Joker, diciamo così, e i non protagonisti Laura Dern e Brad Pitt, che per fare un po' di gossip ha detto lo dedico ai miei figli per i quali io faccio ogni cosa, come per dire, cara ex moglie, A, ho preso un Oscar, B, guarda che io mi preoccupo dei figli. E invece il discorso di Joaquin Phoenix, quello più politico, il dono più grande che mi ha dato il cinema, ha detto, è quello di poter dare voce a chi non ce l'ha. Si è parlato anche di donne, soprattutto l'ha fatto la vincitrice per la migliore colonna sonora, e anche grazie al fatto che per la prima volta l'orchestra dell'Academy è stata diretta da una donna e quindi ovviamente un anno dopo il grande Oscar del Me Too si torna a parlare di questi temi, si torna a parlare di minoranze, però devo dirti una cerimonia piuttosto noiosetta, non c'è conduttore, non c'era neanche l'anno scorso, tantissima musica, sì. tanta musica, molto brava Billie Eilish che ha cantato per l'In Memoriam e un Oscar è andato anche a Elton John. Facciamo, sentiamo una voce, ti chiedo di rimanere ancora un attimo con noi Marta, sì. Faccio sentire una voce, andiamo sul traffico e poi ti voglio su una cosa e poi voglio coinvolgere anche Marianna Aprile e Roberto Arditti su questo, vai Filippo, vai. Sì, l'ho dedicata a tutti i tarantini, anche i tarantini che lottano, che fanno rumore, perché nella mia città purtroppo c'è una condizione insostenibile e indegna per un paese civile, quindi è dedicata anche a loro. Oh, la voce che avete sentito prima naturalmente è quella di Diodato, vincitore a Sanremo. Vi leggo un po' di dichiarazioni, Ve lo ricordate quando ha vinto Mahmood il Festival di Sanremo? Ve lo ricordate? E ve lo ricordate come ha vinto Mahmood? La giuria popolare non l'aveva premiato. E poi però è arrivato primo. Dichiarazioni, Luigi Di Maio: non ha vinto quello che voleva la maggioranza dei votanti da casa, ma quello che voleva la minoranza della giuria, composta in gran parte da giornalisti e radical chic. Giorgia Meloni: mi chiedo che senso abbia far votare il pubblico se poi la giuria dei soliti noti decide di testa sua di far vincere chi sarebbe arrivato terzo. Gianluigi Paragone: c'è la certezza che la vittoria di Mahmood arrivi dal mondo dei fighetta, punto. Alessandro Morelli, ex direttore di Radio Padania: la vittoria di Mahmood all'Ariston dimostra che grandi lobby e interessi politici hanno la meglio rispetto alla musica. Cosa è successo quest'anno? Che Diodato non era arrivato primo, ma è arrivato primo grazie alla giuria di qualità, così chiamiamola, no, come si chiama? La giuria dei giornalisti, no? E insomma, Marta, cara Marta, anche quest'anno voi fighetta avete fatto vincere quello che non doveva vincere, però non si lamenta nessuno improvvisamente. No, vabbè, devo dire, poi io nota radical chic, proprio nota in tutta la brianza per il mio essere una radical chic. Allora, Rispetto all'anno scorso il metodo di valutazione era stato cambiato, scomparsa la giuria di qualità, perché insomma non avevano nessuna competenza, perché devono votare attori e registi. Rimasta la sala stampa, ma il nostro voto, quello della sala stampa, è stato ridimensionato. L'anno scorso contava per il 50%, quest'anno per il 33%, quindi in realtà noi contavamo pochissimo, ma è un problema matematico, e se l'ho capito io che di matematica non capisco nulla, possiamo arrivarci tutti. Il problema è che noi quest'anno avevamo dei gettoni, diciamo, da dare, e potevamo darli tutti su un unico cantante, quindi ovviamente, cioè tutti, la gran parte potevamo darli a un cantante. La sala stampa non si riesce a mettere d'accordo perché siamo 300, quindi non è che si può fare un concistoro nel giro di pochi minuti, perché votiamo veramente in 5 poco minuti tempo, quando abbiamo quando c'è il podio si vota in pochissimi minuti. E la sala stampa aveva già dato il premio della critica a Diodato, quindi la sala stampa ha premiato Diodato in gran parte appunto per il podio. Devo dire che però contavamo solo per il 33%. Alla fine 34 televoto, 33 demoscopica, 33 stampa hanno dato questo risultato. Alla fine è arrivato Diodato. Però Marianna non si è lamentato nessuno quest'anno del ribaltamento. Perché abbiamo sgominato la lobby dei mammut. Certo, naturalmente. Dopo aver abolito la povertà. No, il discorso è semplice, cioè è che Sanremo, come tutto il resto, ma Sanremo avendo per mesi i riflettori puntati sopra, le lenti di ingrandimento puntati su ogni dettaglio, è un terreno fertilissimo per qualsiasi polemicuzza pronta a beva, perché poi in realtà sono polemiche facili, senza strascichi reali. Lo dimostra proprio il caso Mahmood, cioè Mahmood e la canzone tanto criticata l'anno scorso è stato un successo quest'anno non solo in Italia ma anche all'estero, ha macinato record di gradimenti, ascolti e guadagni tali da attittire qualunque polemica. Il punto è che Diodato è italiano, lo è anche Mahmood, ma però non lo sembrava. Esatto. Non lo sembrava, è italiano e poi è tarantino, quindi come fai a sparare su un giovane talento che viene dal sud, una città martoriata dalla mala politica? Cioè, chiunque lo tocchi muore, e quindi la polemica questa volta ha valutato che i risultati sarebbero stati negativi. Che non fosse il caso, avesse vinto Achille Lauro con tutti i vestitini, il bacio in diretta, eccetera, ovviamente sarebbe stata una cosa diversa. Sentite, vi voglio portare, intanto ringraziando la nostra Marta Cagnola che troviamo nei GR con le cronache dagli Oscar, volevo partire da te Roberto, vi volevo coinvolgere rapidamente sulla questione del coronavirus, che sicuramente ci porteremo dietro per tutta la settimana, con due ordini di dubbi. Il primo è sugli effettivi numeri che arrivano dalla Cina, il secondo dubbio è sulle misure prese dall'Italia che stanno suscitando un po' di nervosismo a Pechino, da quel che apprendiamo. Roberto? Adesso a Pechino possono essere nervosi finché gli pare, ma basta vedere il grafico, purtroppo, delle persone decedute per questa epidemia, e il numero delle persone decedute, per quanto ne sappiamo, ha superato in 20-25 giorni il numero di morti raggiunto dalla SARS, l'ultima epidemia o pandemia di dimensioni analoghe, in un tempo 4 o 5 volte superiore. È vero che il numero di contagiati è molto più alto, Roberto? Appunto, almeno quelli che conosciamo. Ed è questo un ulteriore motivo di preoccupazione. D'altronde, noi non conosciamo nella storia moderna, e credo neanche in quella antica, un provvedimento di isolamento di un numero di persone come quello preso dal governo cinese. Non sono in grado di dire quanti milioni di persone riguarda, ma riguarda decine di milioni di persone. Di conseguenza siamo di fronte a una questione serissima. Segnalo peraltro che non disponiamo di nessun numero sul continente africano del numero di persone coinvolte. E siccome i cinesi che vivono in Africa sono moltissimi e che ci lavorano, è abbastanza improbabile che si siano riscontrati, come leggo sui giornali stamattina, 11 casi di persone contagiate in Francia, 12 negli Stati Uniti, 15 in Australia e nessuno nell'intero continente africano. Voglio solo dire, senza allarmismo, che siamo di fronte a una questione molto seria e anche le autorità cinesi, va detto con grande serietà, per una prima fase hanno lesinato informazioni alla comunità internazionale. Sì, almeno all'inizio. Marianna, è indubbio che ci porteremo dietro questa vicenda per parecchie settimane, con ovvie poi preoccupazioni anche dal lato economico, naturalmente. Sì, è indubbio che ci porteremo anche a lungo i dubbi su quello che sappiamo davvero, perché diceva giustamente Arditti, all'inizio le informazioni scarseggiavano, ma anche adesso non sono esattamente precisissime e soprattutto trapelano dalla Cina notizie come quella della quarantena forzata imposta al blogger che raccontava la vita a Wuhan e quindi di fatto increspava la narrazione ufficiale che da lì arrivava. Tutti questi elementi messi assieme al fatto che sì, è vero che il tasso e la percentuale di mortalità dei contagiati di mortalità rispetto ai contagiati è più bassa della SARS, è molto bassa a detta dei virologi, ma è anche vero che appunto che si tratta di un virus molto molto virulento, molto più facile da contrarre. Peraltro c'è tutto un tema molto poco raccontato della sopravvivenza del virus sugli oggetti, perché finora il racconto ufficiale ci ha molto tranquillizzati sul fatto che bisogna avere un contatto diretto con gli infetti, cioè invece adesso si inizia a far largo anche l'ipotesi che sopravviva anche su oggetti inanimati, il che capite bene che se fosse confermato alimenterebbe ovviamente psicosi assolutamente ingestibili ovunque. Assolutamente, il povero vice ministro Sileri, chissà, non sarebbe più salutato da nessuno. Roberto Arditti, Marianna Aprile, grazie. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.